arriviamo che ci stiamo squagliando. Su, su. Sì, sì, squagliami, squagliami. Sì, sì, squagliami, squagliami. Thank you. Avanti il musichiere, buonasera. Buonasera ragazzi, sono io. Buonasera, sono io, sono io. Ciao Eugì, allora. Ho visto che non c'era nessuno, mi stavo divertendo. Hai fatto bene. E chi tu mi impedisce? No, si può fare quando non c'è nessuno, insomma, magari la mattina ascolto, però se c'è gente che parla non le faccio queste cose. No, il discorso è che serve anche per svegliare la gente, visto e considerato che siamo tutti addormentati, soprattutto in questo periodo d'estate. Signori, caldo sta facendo, volevamo l'estate, eccola qua. Io sto rientrando da lavoro e va, con il mezzo che uso, 70 gradi dentro, sono su per buttarmi l'acqua addosso, intanto evapora. Va bene. Perché tu devi usare una tuta che assorba bene l'acqua, la bagni completamente, poi te ne puoi andare dentro lì dove lavori, almeno rimani un po' al fresco. Ma non fa, sali scendi al trattore, sali scendi da quel cavolo di mezzo, ti crepa, ti uccide. Va bene, no. Comunque, signori, tutto a posto, sì? Sì, tutto a posto. E tu? Tutto ok? Io anch'io. Si lavora e si lavora. Giorno, notte e sera. Si lavora sempre. È meglio così, tu sei ancora giovane, per cui devi ancora faticare. Fatica, così mi paghi una parte della mia pensione. Vabbè, accettiamo anche questo. Io l'ho pagata per altri, adesso tu la stai pagando anche per me. Va bene. Chi c'era? Gianni lo più rumma? No, io non l'ho sentito a Gianni oggi. Ah, eri solo tu che parlavi. No, è appena salito, cioè sono appena salito, ho acceso e ho sentito la tua musica, niente di più. Ah, ok. Va bene, giù, io stavo a farmi la luce, sono entrato adesso a lavoro e faccio schifo. Sono di 9 GNV oggi. Sotto su alto, tutto appiccicoso. Sentiamo più tardi. Lo so che c'è caldo. Ascolta, Eugenio, togliami una curiosità, visto che tu hai un K al momento che stai usando, com'è il mio segnale con questo baracchino qua? Vai. Sei a 7, come moduli sale a 8. Cioè 8 lo supero leggermente. Ho capito. Mentre invece se faccio così, guarda, ti lascio andare, adesso dovrebbe essere di meno. Dimmi com'è e poi ti saluto. Ciao, grazie per i controlli e anche per la piccola chiacchierata. Ciao Eugenio, riprendi e dimmi il segnale, vai. Allora, sei a 3, modulati 4. Sei sceso parecchio. La modulazione era molto meglio l'altra. Comunque, come segnale, prima eri da 7 e superavi l'8 modulati, questa qua sei 3 e tocchi il 4 modulati. E comunque sempre piacere sentirti. Ciao zio Giulio. Ok, ciao Eugenio, grazie, anche da parte mia è un piacere ascoltarti, ciao. Sì, stavo uscendo con un watt e mezzo, ecco, un watt e mezzo in questo momento. Ciao Eugenio, alle prossime, ciao. Ma si sente tutto. Va bene, ciao Giulio, ciao.